Allora, nella parasha di questa settimana, dedichiamo Scusi, diamo la lezione la lezione al a Massimo Massimo Misciulli. Micciulli, che sarebbe stato il suo Sì. compleanno. La parasha di che parasha è questa settimana? Boh. Aspetta, boh, Questa è la classica battuta romana. La parasha di Boh. La parasha di questa settimana include in sé la prima delle mitzvot che sono state ufficialmente trasmesse tramite Mosè al popolo ebraico. Che mitzvah è? È la mitzvah di, più esattamente, di santificare e contare, fissare i mesi. E quindi, diciamo così, il calendario o lunario ebraico. Il primo testo che abbiamo qui, lo leggiamo subito, perché dice una cosa molto interessante relativamente a questa mitzvah che si trova in questa parashah. Anche se la fonte di questo testo non è su questa parashah, è un commento di Rashi, è un commento in cui Rashi commenta il primo versetto della Torah, Bereshit bara. Come lo commenta? Nella seguente maniera. Rashi su Bereshit Aleph Aleph, primo versetto di Bereshit, Rashi dice, cita, Amar Rabbi Yitzchak, disse Rabbi Yitzchak, lo haya tzarich, non avrebbe dovuto lehatchil et haTorah, iniziare la Torah avrebbe dovuto cominciare non con la creazione, con il racconto della creazione in teoria, bensì ela, Bemitzvat HaChodesh HaZeh Lachem. La Torah avrebbe dovuto iniziare, dice questa fonte citata da Rashi, dalla mitzvah di HaChodesh HaZeh Lachem, che è la mitzvah appunto di creare e santificare i mesi, secondo la nascita della luna. Perché Shehi mitzvah rishonah shenitztavu ba Yisrael, poiché questa è la prima mitzvah con la quale sono stati istruiti i Bene Israel. Cosa sta dicendo Rashi? Rashi sta dicendo per quale motivo la Torah inizia raccontando tutta la storia della creazione e tutta la storia dell'umanità e di Adamo e di Noè, tutte queste cose, se Torah, che cosa è? Torah è un libro di istruzione. Infatti la Torah, la parola stessa Torah, significa istruzione. Non è un libro di racconti e non è un libro di storia. E molte storie, come dico spesso, non sono state scritte sulla Torah. E quindi non è che uno può dire questo è un libro della storia dell'umanità o del mondo, perché tantissime cose non sono assolutamente scritte. Tante generazioni sono saltate, eccetera, eccetera. Quindi Rashi pone questa domanda all'inizio del suo commento, proprio al primo versetto della Torah, dice perché la Torah dice questo? Avrebbe dovuto iniziare da dove? Dalla prima mitzvah. Qual è la prima mitzvah? È quella che ci troviamo adesso. Boh, nella parasha di Boh. Santificare i mesi. E il motivo per cui citiamo qui questo Rashi è per sottolineare questo fatto che la prima mitzvah comandata al popolo ebraico in assoluto è questa qui di santificare i mesi. E ci sarebbe da capire. Perché? Perché questa è la prima. Se vediamolo prima da un punto di vista di come è stato proprio espresso il comando, che approfondiremo tra un momento anche il linguaggio che è stato usato in questa istruzione, la Torah dice, ora citiamo invece la nostra parashah, la Torah dice, Vayomer Hashem, il secondo paragrafo, Vayomer Hashem el Moshe ve el Aharon, Be'eretz Mitzrayim lemor. E il Signore disse a Moshe e ad Aaron, mentre si trovavano nella terra d'Egitto, dicendo la seguente cosa, HaChodesh HaZeh Lachem Rosh Chodashim. Questo mese corrente, sarà per voi Rosh Chodashim, il capo dei mesi. Poi approfondiremo un po' di più il significato del versetto, ma citiamo subito la citazione del Sefer HaMitzvot, l'elenco delle mitzvot fatto dal Rambam, da Maimonide, ed risulta la Asse mitzvah positiva numero Kuf Nun Gimel, che corrisponde al 154. Tzivanu Yitbarach, il Signore che sia benedetto ci ha comandato, le Kadesh Chodashim, di santificare i mesi, ulechashev e di fare i calcoli relativi a Chodashim, ai mesi, a Veshanim e agli anni. Ok? In altre parole, il Maimonide Rambam ci sta dicendo che abbiamo una mitzvah, abbiamo un obbligo di creare un sistema che è un calendario, e che è un calendario particolare perché si basa su dei mesi che hanno come definizione il ciclo della luna. Ma perché non solare? Benissimo. Allora, questa è una delle domande, ma prima ancora di arrivarci, vorremmo capire. Sembrerebbe quasi più una cosa tecnica. Cioè, devi gestire il tuo tempo e quindi devi scegliere un sistema per gestirlo. Perché è così importante che sia fatto proprio in quella maniera e proprio secondo quelle cadenze che la Torah ci invita a fare? E poi, perché è talmente importante da essere proprio la prima di tutte le istruzioni che ci viene data, che ci vengono dati come popolo? Se la prima cosa fosse la mitzvah dello Shabbat, o l'idea dell'unico Dio, la fede in Dio, le cose base, la Milah, la procreazione, cose che proprio garantiscono l'esistenza dell'ebraismo, no? Qui sembra, sì, certo è importante, perché se non c'è la gestione dei tempi, allora non ci sono festività chiare, eccetera, eccetera. Però, sì, è importantissimo, ma la modalità è più, in teoria, forse, per dirlo così, no, per i fini della discussione, è una cosa marginale, o come non marginale, ma tecnica. Comunque, vabbè, trovate un modo, però fate qualcosa. Invece sembra una cosa di importanza assoluta. C'è un rinnovo della persona da Scottish, dunque da quello che si parte, è l'importanza della Ok, festività. stai facendo un discorso che riguarda il rinnovo della luna, quindi il rinnovo della persona, Esatto. eccetera. Questo è, una volta abbiamo la mitzvah di seguire la luna, allora vediamo che c'è in questo il significato del rinnovo. Ma Domanda prima. perché, prima di arrivarci, perché questa importanza a priori? Capisci il senso? Cioè, prima ancora di arrivarci, per quale motivo deve essere con questo tipo di importanza? O almeno anche, sì, è importante, ma come prima cosa in assoluto, prima mettiamo le basi, poi diamo i tempi. No, prima i tempi, poi le basi. Questo è un po' da approfondire, non è una domanda Sì, ma le basi, se non hanno un tempo ben specifico, si possono perdere o cambiare, modificare, Benissimo. alterare, eccetera. Ecco l'importanza del tempo. Che il tempo è Magari importante, una siamo Milà può d'accordo. diventare da 8 giorni a 9, a Sì. 10, meno un vento, perché non do un tempo specifico. La Milà è importante, ma la faccio da un giorno, al decimo giorno. Certo. Invece no, si fa l'ottavo giorno perché è un tempo ben preciso e stabilito. No, no, assolutamente. Stiamo cercando di capire sullo schema grande delle cose, tra quelle cose che noi consideriamo le basi della fede ebraica, sembra che questa sia posta proprio prima di tutto. È la prima delle mitzvot. Certo, penso. Ok? Allora, Andiamo ci avanti. aiuta a ragionare e ad approfondire veramente il senso dell'importanza del tempo. Ci arriveremo con questo approfondimento. Facendo riferimento di nuovo a questo elenco delle mitzvot fatto dal Rambam, da Maimonide, lui come prima mitzvah mette la fede nell'unico Dio. Sempre lo scottish. No, No, la la fede fede in nell'unico Ah, Dio, non lo scusa. Shkodesh. E poi altre, la fede in Hashem, l'unicità di Hashem, il timore del Signore, l'amore del Signore. Questa mitzvah di Rosh Chodesh nell'elenco, abbiamo detto, è il numero 153, non è il numero 1, invece nella Torah è il numero 1. Quindi, cosa vuol dire? Citiamo il Rambam, tanto per la cronaca, nel terzo paragrafo, Minyan Mitzvot del Rambam, cioè l'elenco delle Mitzvot scritto dal Rambam. Lui scrive Mitzvah Rishonah, mi Mitzvot Asse, la prima, anche se non è la prima cronologicamente nella Torah, la prima è quella dello Shkodesh. La prima mitzvah delle mitzvot positive è l'eidah di sapere, di riconoscere, di conoscere Sheyesh Shem Elokah, che esiste Dio. Sheneemar, appoggio testuale, Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio. Dai 10 comandamenti, dalla Aseret HaDibrot. Mitzvah Sheniyah, dice poi seconda mitzvah, l'Yachado, la fede che questo Dio è unico. Ce ne è Mar, dove è detto questo? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nello Shema, il versetto che forma lo Shema. Mitzvah Shelishit, terza mitzvah secondo Rambam, le Ahavo. Noi siamo tenuti ad amare Hashem, ce ne è Mar, ve Ahavta et Hashem, come è detto, anche questo lo diciamo nello Shema, ve Ahavta et Hashem, ama il Signore tuo Dio. Mitzvah Revit, quarta mitzvah, le Yirami menu, dobbiamo anche essere timorosi del Signore, Shenemar et Hashem Elokecha tira, come è detto nella Torah, abbi timore del Signore tuo Dio. E poi va avanti, quinta, sesta, eccetera, eccetera. Poi a 153 arriva a quella di Rosh Chodesh. Sembrerebbe che, se forse potremmo dire che l'ordine halachico delle cose è così come è stato indicato da Rambam, l'ordine invece, l'approccio forse di studio è quello che ci dà la Torah, che anche l'ordine della Torah, è istruzione, è lezione, ci dà qualche molte indicazioni. E quindi è quasi come se prima di studiare la Torah stessa dobbiamo trarre dei messaggi dall'importanza di questa mitzvah della Kiddush HaChodesh, della santificazione dei mesi. E noi vogliamo vederlo stasera sotto due profili generali. Un profilo sarebbe legato alla posizione della Torah Shebealpeh, della Torah orale all'interno del nostro sistema, e la seconda proprio la posizione e l'importanza del tempo, proprio del tempo stesso nella vita ebraica, visti questi due profili attraverso proprio la mitzvah del Kiddush HaChodesh, di santificare il mese. E vedremo in che maniera. Cronologicamente, quello che accade in questo momento nella Torah, in cui appunto viene trasmessa questa prima mitzvah del Kiddush HaChodesh, cosa avviene in questo momento nella nostra storia? Sta avvenendo a breve l'esodo dall'Egitto, Yetziat Mitzrayim. A breve siamo verso le ultime piaghe e l'uscita dall'Egitto. Ora, in tutto questo, in mezzo a tutto ciò, perché bisogna anche un attimino pensare al contesto, ci sono state già la maggior parte delle piaghe, ora gli ebrei stanno ancora nella schiavitù, il faraone è ancora con la sua idea. Però c'è grande confusione, c'è grande fermento nel popolo egiziano perché si sono stufati ormai di questa situazione, di queste problematiche con le quali vengono afflitti, eccetera, eccetera. Quindi direi che c'è confusione, c'è molto fomento, c'è. In tutto questo, in mezzo a tutto ciò, come abbiamo letto prima, Kadosh Baruch Hu chiama Mosè e Aaron e dice loro: cosa succederà? Prossimamente succederà che ci sarà la piaga dei primogeniti, che è l'ultima piaga. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo arrivando al punto in cui queste famiglie, queste tribù diventeranno un popolo, Am Israel, perché come sarà l'uscita dall'Egitto sarà quasi, diciamo così, la formazione quasi finale, che conclude con il dono della Torah, ma quasi andando verso la formazione finale di Am Israel. Quali sono i requisiti per rientrare? Allora adesso inizia a dare delle istruzioni, Uno statuto. come uno statuto, per formare questo popolo. Ok? Così come prima di partire a fare un'azione, prima di uscire sincronizziamo gli orologi, insomma, diamo il Esatto, tempo. esatto. Allora, la prima mitzvah qual è? Quella di, come abbiamo detto, Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Cosa vuol dire? Abbiamo citato prima il versetto, però adesso lo recitiamo. Perché se noi lo leggiamo in senso semplice, Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Questo mese sarà per voi il capo, Rosh, dei mesi. Vuol dire? Il primo mese dell'anno è considerato il mese di Nissan. Leggiamo però il versetto è molto strano. Al capitolo, al numero 2 nella citazione. Facciamo molta attenzione nella lettura del versetto. Il versetto dice: Achodesh azeh lachem, questo mese sarà per voi, Rosh Chodashim, il primo, il capo dei mesi. Poi il versetto prosegue e dice: Rishon hu lachem, il primo sarà questo per voi, le chocea shana, per i mesi dell'anno. Cosa aggiunge nella seconda parte rispetto alla prima? Di nuovo, la prima parte dice: questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Poi aggiunge, scusate, il capo dei mesi, Rosh per esattezza. Poi aggiunge: il primo sarà per voi per i mesi dell'anno. È un anno nuovo, una nuova vita. Perché ripetizione? Lo dice due volte. Sembrerebbe in Non parole dice diverse lo anno, stesso non dice concetto. anno. Non parla di anno? Sempre. Ah, dici la prima volta non dice anno? Esatto. Lechocea shana, aggiunge i mesi dell'anno. E la prima parte sono i mesi di cosa? I mesi del secolo? Per sempre, diciamo. Cioè, mesi sono mesi di un anno. Quindi Ma ancora diventa ancora più difficile capire. i mesi forse prima c'era un concetto diverso, nel senso che erano stagioni, non mesi. Da qui diventano mesi veri e propri. Anche le stagioni però fanno parte dell'anno, quindi non Sì, è la parola però anno che mi cambia da stagioni in mesi. Allora, ok, l'anno zero, il mese zero. lo capisco già dalla Questo prima mese. parte, perché serve la seconda Si parte? parte da Si qui. ripete. Si ripete? Sentiamo cosa dice Io Rashi. penso che sia proprio per l'eternità che tu dovrai. Va bene, tutto ciò che dice la Torah è per l'eternità. Non deve Appunto. ripetersi. Possiamo Infatti, dire, volevo va bene, ripetermi. basta una volta. Vabbè, Non lo deve ripetere. sentiamo. Sentiamo cosa dice Rashi. Rashi dice: En mikra yotze midei pshuto. Rashi sta dicendo: in teoria si potrebbero fare degli approfondimenti, però il versetto ritiene sempre il suo senso semplice, letterale, e di conseguenza spiega al Chodesh Nisan amarlo che HaKadosh Baruch Hu sta parlando a Mosè riguardo il mese di Nisan, che era il mese corrente in quel momento. E gli stava dicendo: Zei Yerosh, questo mese qui sarà il capo, le Seder Minyana Chodashim, per ciò che riguarda l'ordine del conteggio, quindi dei mesi, cioè Sheyehe Iyar Karui Sheni, cioè il mese successivo a Nisan sarà chiamato secondo mese, Sivan, il mese successivo a quello, sarà chiamato Shlishi, terzo mese, eccetera. Però Rashi, in teoria, non affronta il problema della ripetizione. Rashi ci sta spiegando che il senso qui è letterale, ovvero che questo mese sarà chiamato primo mese, Rishon. E il secondo mese, cioè non solo sarà il capo dei mesi, ma sarà chiamato proprio Rishon. E il secondo mese, quello che noi chiamiamo Iyar, sarà chiamato Sheni. E infatti la Torah non dà nomi ai mesi. Questi sono nomi che abbiamo dato successivamente in Babilonia. Babilonesi, sì. Bravo, que Rishon, secondo mese, terzo mese, eccetera. Bene, però ancora non abbiamo chiarezza in questo versetto. Prima di tutto, Achodesh lazeh lachem, questo Chodesh. Cosa vuol dire la parola Chodesh? Anche da santificazione. No, questo è Chodesh con una Kuf, un'altra Ah, parola. vabbè. Questo è con una Chet. Ma la parola Chodesh, che significato ha? Noi lo traduciamo in mese, però ormai abbiamo visto la traduzione, ma chi dice che Chodesh vuol dire mese? Cos'è il significato della parola Chodesh? Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è, cioè, la ripetizione che dicevamo prima. Allora i maestri dicono che il versetto ci sta insegnando qualcosa di più rispetto a quanto abbiamo tradotto in maniera semplice. Ovvero, ci sta dando un altro tipo di indicazione di come vedere il tempo. Perché la parola Chodesh viene dal termine Chadash, nuovo, Hidchadshut, rinnovo, come dicevi tu prima, rinnovo. E la Torah, nel dire HaChodesh HaZeh, non sta dicendo questo mese, sta dicendo questo rinnovo, ovvero il rinnovo della luna, quando la luna è molto molto, la si vede, molto piccola, che è un ciclo di 29 giorni e mezzo circa, 29 giorni, 12 ore e rotti, questo rinnovo della luna sarà Rosh Chodashim, sarà il capo dei mesi, ok? Cioè la prima parte del versetto è riferito a tutti, è riferita a tutti i mesi. Tutti i mesi saranno rinnovati, inizieranno, il loro capo, Rosh, sarà quando? A Chodesh, quando si rinnova la luna. Quando si rinnova la luna, quello è, sarà per voi Rosh Chodesh. Sarà per voi il capo di un nuovo mese. Ok? Poi, la seconda parte del versetto ci dice Rishon Ulachem, questo mese qui, corrente in cui ci troviamo, sarà il primo tra tutti questi mesi. Quindi sono due messaggi, non è una ripetizione. Il primo messaggio è cosa è il tempo, come lo calcoli, come fai questo conteggio? Lo fai dal rinnovo. Il rinnovo è Chodesh HaZeh, questo concetto di rinnovo che tu vedi adesso, la luna nuova, che c'è scritto che lui gli ha fatto vedere, vedi la luna nuova, era Rosh Chodesh, era il giorno della la nascita della luna, del riapparire della luna. Questo è il concetto di Rosh Chodesh. E poi aggiunge, dice, questo qui in cui ci troviamo, Rishon, questo è il primo di tutti gli altri. È quello da cui gli altri seguono. Ok? Scusa, Rab, sì? Ma questo avviene prima dell'ultima viaga, giusto? Dunque, un Rosh Chodesh sarà fatto in Egitto, il primo Rosh Chodesh. Sì, certo. Prima dell'uscita? Sì, certo. Prima dell'uscita. Prima dell'uscita. Sì, certo, perché l'uscita era il 15, era il 15 di quel mese. Bene. E così spiega un commentatore che spiega, che commenta Rashi, un super commentatore, il Mizrahi. Qui è citato, ma adesso non lo leggo. Okay. È chiaro che, come abbiamo anche detto tutti prima, la vita ci richiede un certo tipo di sistema per gestire i nostri tempi, chiaramente, normale. È importante per tutte le cose della vita, per la scuola, per gli affari, per tutto quanto. E ovviamente è importante anche per le ricorrenze annuali o stagionali, eccetera. Come si usava fissare queste ricorrenze e in generale gestire i propri tempi prima che fosse stata data questa istruzione, prima che fosse stata data la Torah, ma questo è stato dato ancora un po' prima che fosse stata data l'intera Torah, si seguiva un ciclo esistente, che è il ciclo solare, che è più facile perché in circa 365 giorni abbiamo un unico ciclo e in base a questo ciclo fissiamo tutte le varie ricorrenze. È un ciclo fisso, è un ciclo che corrisponde alle stagioni legate al lavoro agricolo, ci aiuta in molte maniere. Ora la Torah viene e dice una parola nuova, Chodesh. Con questo la Torah ci sta dicendo che non stiamo più guardando, tra parentesi vedremo anche quello, però non stiamo più guardando il ciclo solare, stiamo guardando il ciclo lunare. Quindi ogni mese segna l'inizio di un nuovo ciclo lunare e 12 cicli lunari insieme formano un anno. Quanti giorni sono? 354. Sono circa 354 giorni, non sono 365. Un altro tipo di conteggio, un altro tipo di calcolo. 11 giorni di meno. 11 giorni di meno, ecco perché abbiamo ogni tanto. Ogni 4 anni si aggiunge un mese. Meno di 4 anni, anche ogni 3. Abbiamo un mese in più proprio per stare appresso, recuperare anche il ciclo solare, perché il calendario ebraico in realtà è sbagliato dire che è lunario, è un insieme perché le nostre ricorrenze seguono anche le stagioni. Pesach deve venire di primavera, di conseguenza dobbiamo recuperare questi 11 giorni che si accumulano. E torniamo indietro. Come Tishah B'Av era sempre d'estate. È il perno. Tishah B'Av per sempre d'estate. Certo. No, no, d'estate. No. Un po' di meno. Gli anni cosiddetti bisestili, che non è il termine giusto, bisestile è il giorno in più dell'anno solare. Non è. Cioè, un bisestile. Io l'ho detto. Non è, sto dicendo, c'è un altro termine embolismico, mi sembra, per gli anni dove si aggiunge un mese. Sono 7 volte nel ciclo di 19 anni. Ok, in ogni caso, è interessante che anche in alcune lingue, come per esempio in inglese, lingue germaniche, come si dice mese? Monte. Che parola ci ricorda? Sì. La luna. Sì? Ci ricorda la luna, perché nel ciclo solare non c'è un concetto di mese, come lo conosciamo noi. Il mese dell'anno civile è semplicemente una convenzione, un accordo per facilitare la gestione dell'anno, che dividiamo i 365 giorni, che è quello il ciclo del calendario solare, lo dividiamo in 12 per comodità. Però non è che il mese ha un vero significato a livello di ciclo astronomico. Quindi il concetto di mese, month, è legato alla luna, ciclo lunare. Ora, perché il concetto di mese non è, cioè, noi sappiamo che gennaio in teoria è inverno e agosto è estate. Sì, ma è una convenzione. Perché, cioè, cosa rappresentano i 31 giorni di gennaio rispetto ai 28 di febbraio? Che ciclo seguono? Non è che c'è un ciclo mensile di 28 e poi un ciclo mensile di 30, di 31 e poi uno di 30, no? È una comodità. Del nord, perché se tu dici siamo nel giorno 230 del 2016, ti confondi. Però se dici 30 gennaio 2016 è più facile, tutto là. Ma non c'è un ciclo legato alle mensili, il ciclo è solo solare, è un ciclo stagionale, eh? Sì, sì, per calcolare. Diciamo, nel mondo degli affari spesso si usa il settimana numero, sì, no? Sì. Che è già un po' più facile. Sì, sì, certo. Numerate le settimane. Però anche quello lo devi guardare sul calendario, non è che te lo ricordi. Certo. Siamo nella settimana 5, eccetera. Dicono sempre 4 settimane, 3 settimane, non dicono mesi. Ok. Torniamo a noi. La mitzvah di creare questo nuovo ciclo e di seguirlo per formare il ciclo dell'anno ebraico, o almeno il ciclo dei mesi. La Torah non ci dice solamente questo, che sarebbe più quasi una cosa tecnica, no? Gestita in questa maniera. No. La Torah ci dice le kadesh, di santificare, come dalla parola kiddush, santificarlo il mese. Santificarlo vuol dire voi dovete fare una azione, è una cosa attiva, non è solo passivamente guardate questo ciclo e seguite secondo questo giro. No, siete voi che lo dovete santificare, così come dobbiamo dire le kadesh Shabbat, in maniera attiva dobbiamo agire in una determinata maniera perché Shabbat sia Shabbat. Dobbiamo fare qualcosa perché il mese sia il mese. Ma poi vuol dire anche distinzione, dunque ci siamo tutti. Va distinto, sì, il mese dall'altro. Esatto. E però è più solo del distinguere, ma anche proprio creare. Ora forse sia più chiaro quello che intendo dire, perché noi oggi guardiamo il lunario e vediamo quali sono i mesi, però in origine, come la Torah ha voluto e come è stato per tantissimi secoli con il Bet Din HaGadol, con il Sinedrio, il Sanedrin, eccetera, si attendeva l'arrivo di due testimoni, almeno due, che hanno visto la luna nuova e che testimoniano: noi abbiamo visto la luna, e in base a questa testimonianza, che poi vengono interrogati nei minimi dettagli in maniera separata l'uno dall'altro, come se fosse una testimonianza per qualsiasi altro giudizio, diciamo così, e il corpo giuridico più elevato, il Bettin Agadol, santifica in base a questa testimonianza il mese in rappresentanza di tutto Am Israel, rappresentanza di tutto il popolo ebraico, e poi veniva comunicata questa cosa a tutti quanti per capire quando inizia il mese, in modo tale che poi le festività e tutto il resto seguissero il ciclo giusto. E tra l'altro questa cosa, l'importanza di questa cosa, visto che dà rilievo a tutte le ricorrenze dell'anno, è stata anche presa di mira nel momento in cui ci sono state delle persecuzioni da parte di nemici di Am Israel. Una delle cose che hanno preso di mira, come hanno preso di mira lo Shabbat, la Milah, hanno preso di mira anche il Rosh Chodesh. Hanno vietato che gli ebrei potessero fissare, santificare il nuovo mese. Qui abbiamo una fonte interessante della Megillat Antiochus, cioè una fonte che parla della storia di Hanukkah. Antiochus è l'Antioco, il re greco siriano che aveva fatto quei decreti contro l'osservanza dell'ebraismo, e qui racconta proprio questa cosa qua. Vayomer le Sarav, disse ai suoi ministri: Allo yedatem ki yesh ama yudim asher birushalayim benenu, il popolo degli ebrei che hanno come città importante Gerusalemme, le lokeinu einam makrivim, non danno sacrifici ai nostri dei, vedatenu einam osim, non seguono le nostre leggi religiose, ומייחלים ליום שברון המלכים והשלטונים, e sperano in un giorno che il nostro regno sarà rovinato, perché gli ebrei in quell'epoca non erano indipendenti politicamente. Veomrim mataim lochalino malkeino, quando possiamo avere noi il nostro re indipendente. Allora Antioco diceva: Bou venale alehem, andiamo in guerra contro di loro, facendo che cosa? Venevatel bahem abrit asher koret lehem, annullando, cercando di far annullare il patto che loro hanno con la Torah, con Dio. Cos'è? Shabbat, Rosh Chodesh, Milah, queste tre cose. Con queste tre cose, se togli queste, hai rovinato il popolo ebraico. Shabbat, Rosh Chodesh, la santificazione del mese di cui stiamo parlando qui, e la Milah. Allora, per cercare di capire meglio, facciamo mente locale di quello che sta succedendo qui in questo momento. Noi siamo dentro un Bet Knesset, siamo dentro un tempio. Sulla Torah non c'è scritto che bisogna creare e costruire un Bet Knesset. Cerca in tutta la Torah, dal primo libro fino all'ultimo. Bet HaMikdash? Certo. Questo non è un Bet HaMikdash. No, è scritto sulla Torah di fare un Bet HaKnesset? No? È scritto sulla Torah di mettere una kippah sulla testa? No. Nemmeno. Quello no. Non è scritto sulla Torah. Neanche a lui. Io adesso dovrò dire Arvit, non so se voi già avete detto. No, sulla Torah è scritto di dire Arvit? No. Nemmeno. È aggiunta come preghiera. Neanche Shacharit è scritto sulla Torah. È vero. Neanche Mincha. No, non è esplicito. Nessuna delle tefilote è scritta sulla Torah. E anche la maggior parte del come effettuare le mitzvot, che sono scritte, ma il come non è scritto. Ad esempio, domani mattina mettiamo i tefilin. Sulla Torah non è scritto come devono essere fatti questi tefilin, neanche cosa sono. E sicuramente non è scritto che siano di colore nero e che sono quadrate e che sono fatte dalla pelle di un animale kasher e che dentro c'è una pergamena scritta con un inchiostro fatto in una determinata maniera. Signori, cari amici, la maggior parte della vita ebraica vissuta, così come l'abbiamo sempre vissuta, non è scritta sulla Torah. Non è scritta sulla Torah. Questo è un dato di fatto. E allora da dove viene? Ora si potrebbe fare una lezione su questo e non lo sto facendo, non la sto facendo adesso, se Dio vuole la faremo, però detto in maniera molto breve, il concetto è che Mosè ha trasmesso a noi non una Torah, ma due Torot. Per iscritto ci ha trasmesso gli appunti, quello che è scritto. È quello che è scritto sul Sefer, quello che si chiama Torah Shebichtav, Torah Shebeal, scritta, e oralmente ci ha trasmesso il significato di questi appunti. A cosa mi riferivo? A questo. Adesso te lo spiego. E ha spiegato, e questa cosa è stata trasmessa oralmente, finché è stata anche questa messa per la maggior parte per iscritto. E queste sono le halachot, le spiegazioni, le indicazioni specifiche riguardo le mitzvot. Cosa c'entra con il mese? Il commentatore Ibn Ezra, che adesso citiamo, scrive che la prima mitzvah in assoluto che ci viene trasmessa è quella di cui stiamo parlando, quella della santificazione dei mesi, per trasmettere a noi anche l'idea di quanto sia importante, e diventa poi questa anche una prova dell'esistenza della Torah Shebe'al Peh, che nel corso dei secoli molti hanno cercato di negare. Questo hanno inventato i rabbini e questa è un'interpretazione degli uomini, non è Torah. Invece questa mitzvah qui è la prima mitzvah, anche perché diventa un capostipite di quello che vuol dire trasmettere Torah orale, e che Torah orale è essenziale per capire Torah scritta. Come si esprime in questa mitzvah? Scusa solo un secondo. Come si esprime in questa mitzvah in particolare? Innanzitutto, prima abbiamo citato il versetto, che poi sembra ripetersi, ed è un versetto molto difficile da capire senza interpretazione, senza spiegazione che ci è stata trasmessa. Perché a Chodesh Azeh Rosh Chodashim, questo Chodesh è il capo dei mesi. Quale Chodesh? Non c'è scritto. Poi, come ho detto anche prima, cosa vuol dire Chodesh? Che cosa significa? Secondo, un'altra cosa, come si festeggia, come si segna questo Rosh Chodesh? Ok, Rosh Chodashim, ma come, cosa si fa? Come diventa? Come si individua la nuova luna? Se abbiamo capito che vuol dire rinnovo. La Torah non scrive quasi nulla di questo. Di tutto ciò, di tutte queste indicazioni, di tutte queste specificazioni e dettagli, proprio perché con questo la Torah allude alla presenza di un pacchetto che accompagna, un manuale di spiegazione orale che accompagna quanto è scritto. Quindi per dire, questo è l'appunto e vedi la spiegazione orale per capire cosa, che senso ha questo appunto. Quindi la prima mitzvah della Torah, la prima in assoluto, che è questa qui, del Kiddush HaChodesh, santificazione dei mesi, è la mitzvah che arriva con l'indicazione, vedi al lato, dove al lato? Nella tradizione orale. Guardiamo il testo dell'Ibn Ezra, è molto interessante, al numero 3, dice, Veine Moshe, ecco che Moshe, lo piresh lanu batorah, non ci ha spiegato, non ha reso esplicita nella Torah la spiegazione, ech nikba shanim, come fissare i mesi, gli anni e i mesi. Vim lo nimza aviv. Da una parte la Torah ci dice di festeggiare Pesach nel mese aviv, cioè periodo invernale, scusate, primaverile. Dall'altra parte ci dice di fare i mesi a livello della nuova luna, col ciclo della nuova luna. E allora può capitare che non sia nel periodo primaverile, perché ci sono solo 354 giorni. E così via. Abbiamo tante problematiche, dice. E quindi, scrive il commentatore importantissimo Ibn Ezra, spagnolo, v'yesh litmoa bazet emagdolat, miagdolat, una grande meraviglia, non si capisce questa cosa, in quanto da una parte ci sono altre cose che sono molto specificate nella Torah, nei minimi dettagli, e fa l'esempio ora, ech piresh dine kol nigea mezzorah, tutti i dettagli del lebroso, che c'è tutta la parashah, due parashot dedicate alla malattia, alla problematica della lebbra, la zarat, e nei minimi dettagli, che riguarda un individuo, eventualmente, non è una cosa che riguarda tutto il popolo. Ve lo yamod becholzman, e non è neanche una cosa che rimane per sempre. Oggi non abbiamo la zarat. C'era un'epoca in cui esisteva la zarat, oggi non esiste. Veiniach devara moadim, invece per ciò che riguarda i moadim, che si basano sul ciclo lunare, shekol Yisrael chayavim le shomram, e sono indicazioni che tutto il popolo ebraico deve seguire, e bechol zeman, in tutti i tempi, in tutte le epoche, una cosa eterna, e sono molto importanti in quanto yesh karet, c'è una pena molto difficile di karet per mangiare chametz a Pesach, o mangiare durante il giorno di Kippur. Com'è possibile di trasmettere tutto ciò in un unico versetto? Achodesh azeh lachem rosh chodashim rishonu lachem lechodshe hashana. Vezeh leot, scrive l'Ibn Ezra qui nel grassetto, questo è il segno, nel senso, questa è la prova, chi samach al kriyat bedin bechol dor vador, che la Torah si appoggia alle indicazioni trasmesse da un beddin all'altro nel corso delle generazioni, vuol dire da maestro, allievo, padre, figlio, eccetera. Quindi una cosa fortissima, importantissima di questa mitzvah è che con questa mitzvah la Torah ci sta dicendo non è tutto scritto, anzi la maggior parte non è scritta. Ma c'è un'altra cosa che ci sta dicendo con questo. E riguarda in particolare questa mitzvah, ma può essere anche applicata a molte altre cose. La Torah con questo ci sta dicendo che con le mitzvot e con l'accompagnamento cosiddetto della tradizione orale, non è solamente una trasmissione di informazioni. Vuol dire, scrivo una riga, oralmente trasmetto qualche pagina o qualche trattato che sia, o qualche capitolo per spiegare, e quindi adesso avete tutte le informazioni, mettete in atto. No, non è solamente questo. È una trasmissione di potere, di forza, per poter effettuare qualcosa di nuovo. Cioè che tu, uomo, tu Beddin, puoi effettuare qualcosa che prima non c'era e adesso c'è grazie al tuo input. Nello specifico, dal punto di vista anche mistico, cabalistico, come spiegato anche nella Hasidut, quando avviene, quando ricorre un Moed, per esempio, una festività, perché quello è un giorno particolare? Un giorno particolare perché, a livello mistico, in quel giorno c'è una manifestazione divina diversa rispetto agli altri giorni. Un DNA spirituale diverso. Ecco perché va trattato in maniera diversa il giorno. Ma chi fa sì che ci sia un DNA spirituale diverso in quel giorno? Noi uomini. Perché siamo noi che abbiamo fissato i mesi. Allora, se il Pesach viene il 15 di Nisan, non è scritto nella Torah quando sarà il 15 di Nisan. Sì, la Torah scrive il 15 di Nisan sarà quando il Beddin accetterà che lo è e lo fisserà e lo santificherà. Allora sarà primo di Nisan e automaticamente diventerà 15 di Nisan e quel giorno sarà Moed, in cui c'è una manifestazione spirituale divina diversa e più elevata rispetto al giorno prima e rispetto al giorno dopo. Cosa vuol dire? Che HaKadosh Baruch Hu, in certo senso, agisce in base alla decisione del Betin. Ci ha responsabilizzato in finale. Responsabilizzato, bravo. La sua creazione. La sua creazione. Bravo. In questo diventiamo soci, c'è scritto, i maestri dicono Shuttafim, Shuttaf la Kadosh Baruch Hu Maaseh Bereshit. Non solo ok, viene lui con noi, cioè lui segue le nostre indicazioni. Allora sentite, questa fonte è bellissima, la leggiamo. Shemot Rabban, nel Midrash Rabba Shemot, dice così: Amru malachei asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Gli angeli del servizio dissero davanti al Signore: Ribon Haolam, padrone del mondo, e matai ata oset amodot? Quando fai le tue festività? come dire, quando è che c'è vacanza? No. Quando fai i rimodi? A Marlehem, disse loro, Ani ve'atem, io e voi, angeli, cioè esseri spirituali, divini, naskim, daremo il nostro accordo al Mashe Israel gomrimu me'abrim et hashanah. Noi daremo il nostro, diciamo, io annuisco rispetto a quanto loro decidono eventualmente anche a fare un anno con un mese in più, me'abrim et hashanah. Cioè, se pensa che è un'apertura divina, allora l'apertura divina si apre. Ah, ma allora hanno fatto un mese in più, ok, posticipiamo l'apertura divina al mese dopo. Certo. Tranne lo Shabbat, la stabilizzazione. Shabbat non è fissato da noi, stiamo esatto. Parlando dei modi? Sì, certo, lo Shabbat è diverso, un'altra cosa. E dice così, Shenemar cita il versetto della Torah che riguarda i Moadim, in cui dice, Ele Moade Hashem, questi seguenti, c'è tutto l'elenco dei Moadim, questi seguenti sono i Moadim del Signore, Mikre e Kodesh, che vengono chiamati sacri, giorni particolari, DNA spirituale sacro, Asherti creu otam be moadam, che voi li chiamerete nei loro momenti, li segnerete nei loro momenti. Vedete la parola otam è in grassetto perché vogliamo indicare che si può leggere anche atem. La stessa parola otam, essi, cioè questi giorni, si può leggere atem. Atem vuol dire voi. Asherti creu atem, che voi chiamerete. Voi li segnerete, saranno segnati in base alle vostre indicazioni. Amara Kadosh Baruch Hu Israel, quindi prosegue il Midrash e dice, Le Sheavara Yoabiyadi, prima questi momenti erano in mano mia. Sheneimar, come dette, o assai areach la moadim. Aval mikan veilach arei mesura bietchem. Ma d'ora in poi ve lo do in mano a voi. Vi do in mano questa possibilità. E credo che questi approfondimenti ci possono aiutare a capire molto meglio quello che ci chiedevamo all'inizio rispetto alla posizione di questa mitzvah, che è la prima. Ora possiamo capire cosa ci sta insegnando questa mitzvah. Questa mitzvah ci sta insegnando innanzitutto la centralità assoluta della Torah orale, per capire come mettere in atto le mitzvot che sono scritte sulla Torah scritta, e ci sta dando in mano un potere per gestire noi i nostri tempi. E quindi i Moadim, e quindi appunto tutto parte dal fissare il Kiddush HaChodesh, santificare il mese, Rosh Chodesh. Ci ha insomma dato la calcolatrice, Hashem. Esatto, ce l'ha dato in mano a noi la calcolatrice, bravo. Tornando al concetto del tempo in generale, il tempo è difficile, diciamo, è difficile sottovalutare l'importanza del tempo, perché tutto dipende dal tempo. Uno si sveglia la mattina. La prima cosa è che giorno è oggi, che ore sono adesso, se è un giorno di questo tipo si gestisce in una certa maniera, se è un giorno di un altro tipo si gestisce in un'altra maniera, se è un orario di un certo tipo è gestito in una maniera o in un'altra, eccetera. Tutto dipende da questo. Poi, a livello anche di mesi, di anni, di età, posizione, eccetera, eccetera. La prima cosa a livello cronologico è la santificazione di quel tempo. Kiddush HaChodesh rappresenta questo. Santificazione del mese rappresenta la santificazione del tempo anche in generale. Cioè, noi gestiamo il tempo in una determinata maniera, con particolari indicazioni a giorni specifici, particolari, speciali, che danno un'impostazione di un certo tipo a tutte le altre giornate. Cioè il fatto di avere uno Shabbat non è importante solo per lo Shabbat, ma è chiaramente e naturalmente importante per tutta la settimana. Il fatto di avere un Rosh Chodesh non è solo per segnare il giorno di Rosh Chodesh, ma è importante per tutto il mese, così anche Giusto. per tutte le altre ricorrenze e giornate importanti. E quindi, approfondendo questo concetto, molti maestri spiegano che il tempo, visto cioè come tempo che ognuno di noi ha a disposizione nella vita, è come se dicessimo che quel tempo è la somma di quella che è la nostra missione sulla Terra. Una persona ha vissuto 120 anni, quei 120 anni rappresentano la somma di tutto ciò che lui doveva fare in questo mondo. Il motivo per cui è nato, È il motivo per campato cui 120 esiste. anni, cioè. Perché? Perché in 120 anni poteva fare quello che doveva fare. Uno ha vissuto 70 anni e non poteva. 119 perché in 119 doveva fare quello che doveva fare. È la somma di tutto, tutta la nostra missione, se vogliamo metterla così. Ecco perché una persona non può mai dire, ok, adesso ho finito, ora mi riposo. Come vediamo, anche uno che va in pensione comunque continua a lavorare, studia la Torah, fa tante altre cose, perché non esiste nella vita, hai finito. Se hai finito, non dirlo perché non ci sarai più, mai sia. Non abbiamo finito, siamo qui. Se siamo qui vuol dire che ci dobbiamo stare per fare qualcosa. C'era un senatore canadese che era venuto a trovare il Rebbe. Era un senatore per molti anni, forse sì, quasi 3 decenni nel Canada, per l'Ontario. Ha detto al Rebbe, sai, adesso vorrei un consiglio perché dopo tanti anni nella vita pubblica forse sto pensando di ritirarmi, non so. Però al tempo stesso sto pensando, diceva, qual è veramente quello che lascio al mondo, comunque alla mia famiglia, alla mia comunità, eccetera, eccetera. Aveva questi dubbi, queste incertezze. Il Rebbe gli ha detto, sai quanti anni aveva Mosè quando ha iniziato la sua carriera? 80 anni. Mosè è andato in Egitto quando aveva 80 anni. E poi ha guidato il popolo ebraico per 40 anni. È 120. arrivato a 120. Però il punto non è questo, il punto è che ha iniziato a 80 anni e ha cambiato il mondo. Da allora il mondo non è uguale, non è lo stesso. Allora dice il Rebbe a questo senatore, tu ancora non sei arrivato a 80 anni. Hai tempo per fare grandi cose. Non iniziare a pensare cosa ho fatto, cosa non ho fatto, adesso mi tiro indietro. Riguardo Avraham Avinu, c'è scritto nella Torah riguardo Avraham Avinu, ve Avraham Zaken, e Avraham era anziano, si è invecchiato, e Ba Bayamim vuol dire letteralmente veniva nei giorni, cioè aveva molti anni, aveva la vecchiaia, però è comunque una ripetizione, Zaken, Ba Bayamim, perché dice questo? Allora lo Zohar HaKadosh, il sacro libro del Zohar, dice: i nostri giorni, Yamim, è come se fossero degli indumenti, degli abiti, che ogni giorno che viene aggiunto è un altro abito che dovremmo indossare per l'anima. L'anima deve indossare tot abiti per quanto rimane su questa terra. E ogni giorno è un abito, ok? Allora, riguardo Avraham Avinu, dice il Zohar, la Torah sta dicendo, Baba Yamim, lui arriva con tutti i suoi abiti. Ogni giorno è un Il giorno. guardaroba completo. Guardaroba completo. Ogni giorno è stato fatto quello che doveva essere fatto. L'abito è stato indossato. Allora, quando noi santifichiamo non solamente il mese o l'anno, ma il giorno, facendo in quel giorno ciò che dobbiamo fare, la mitzvah, il comportamento che deve essere in quel giorno, Allora stiamo illuminando quell'abito, lo stiamo pulendo, lo stiamo vestendo nella maniera giusta, e, cosa che Avram è riuscito a fare con tutte le sue giornate. Non so se possiamo dire che siamo all'altezza di Avram, anche se i maestri dicono ognuno dovrebbe dire quando potrò io essere come Avram, Isacco e Giacobbe, però almeno dobbiamo andare in quella direzione. E con questo messaggio la Torah apre tutte le altre mitzvot, con questa mitzvah del Kiddush HaKodesh, della santificazione del tempo, e cioè che dobbiamo guardare il tempo in maniera differente. Dobbiamo guardare, ogni momento diventa un compito, diventa una sfida e soprattutto diventa un'opportunità. Si racconta del Rebbe Yosef Yitzchak, il suocero del Rebbe, che quando era piccolo, era un bambino anche di 4-5 anni, lui, suo padre lo aveva detto che era importante imparare a memoria le Mishnayot. E lui allora imparava nel suo tempo libero, non è scuola, nel suo tempo libero si studiava e si faceva interrogare da suo padre, ripetendo a memoria, oggi ho studiato questo, oggi... Suo padre gli regalava dei soldi per ogni Mishnah o per ogni capitolo, non so adesso, che studiava a memoria, gli dava dei regali perché per incentivarlo gli dava. E lui comprava quello che gli pareva con queste cose. Una volta gli si è accumulato gli si è accumulata una somma importante, diciamo, per lui o per l'epoca, e ha pensato, amava molto i libri, pensava, se mi conviene comprare con questa somma dei Sifrei Kodesh, dei libri di Torah, di commenti, eccetera, oppure forse vorrei comprare un buon orologio. Vabbè, all'epoca ci sono solo buoni orologi, perché parliamo del 1885 circa, quindi non c'erano orologi di commerciali come oggi. E alla fine ha deciso, bambino, da solo, ha deciso di comprare l'orologio per quantificare il tempo che aveva a disposizione per poter in questa maniera gestire meglio il suo tempo e studiare più Mishnayot a memoria. Sapere quando, no? E quindi, questa citazione qui al numero 4, adesso del Likutei Sichot, del libro dei discorsi, degli interventi del Rebbe, dice così, ricapitolando quello che ci siamo detti stasera. Mitzvat Kiddush HaChodesh, questa mitzvah di santificare i mesi, Hirishonah, è la prima non solamente cronologicamente, ma Be'inyanah, nel suo senso, nel senso che cosa rappresenta, e Be'madregatah, è anche nel suo livello rispetto alle altre mitzvot. Ovvero, anche se, come si definisce il limite del mondo materiale? Due limiti centrali, spazio e tempo. Per definire quali sono i limiti della creazione, se parliamo in generale, abbiamo spazio e tempo. Ora, quale limite è il primo di questi due? Lo spazio o il tempo? Lui dice qui una cosa interessante, che besedera che di ma magia sman lifnei amakom. La prima cosa è il tempo prima dello spazio. Perché? Lo spazio è infinito. Ogni cambiamento, ogni creazione, è un cambiamento nel senso che prima non c'era, adesso c'è. È un cambiamento prima nel tempo. E quindi la prima cosa che viene a, diciamo, a creare o a essere creata in questa nuova realtà che è l'universo, la creazione, è il tempo, perché è quello che definisce il prima e il dopo. E poi all'interno di questo tempo, spazio è la variabile. Spazio è la variabile, esattamente. Nell'esperienza il principio Bereshit. Esatto. Bravo. Ecco perché la mitzvah di Kiddush HaKodesh è la prima mitzvah. ולכן קידוש החודש היא המצווה הראשונה, משום שתחילה פועלים קדושה בממד הזמן. Prima si effettua una santificazione della dimensione tempo, del concetto tempo, che che è la prima cosa, su Atchalata Mitzvot. Poi arrivano gli atti della persona, che fanno sì che la stessa santità si applichi anche allo spazio. Riempie il tempo. E appunto, come citavamo prima, Abraham Zaken Baba Yamim, Abraham veniva con tutti i suoi giorni, come dice il Zohar, che aveva i giorni interi, cioè questi indumenti che sono la Torah e le mitzvot di ogni giorno diventano una copertura spirituale elevata dell'anima attraverso la quale la persona si lega all'Achdut Hashem, all'unicità di Hashem. E quindi l'importanza del tempo, diciamo che questo ci aiuta ad apprezzare magari anche un po' di tempo, un piccolo momento in cui si può fare qualcosa che magari avrebbe potuto essere facilmente perso quel momento, invece no, ha una sua importanza. Ho raccontato una volta una battuta di uno che un rabbino ha chiamato una persona della comunità, ma molto indaffarata, tantissime cose da fare, una persona molto importante, eccetera, eccetera. Cioè, vorrei invitarti a venire a lezione di Torah. Se davvero sarebbe il mio sogno. Veramente vorrei venire a studiare. Però cosa posso fare? Non ho il tempo. Ti ricordi la storia? Allora il rabbino disse: peccato, io pensavo che tu hai tutto. Non ti manca nulla. Era la persona più ricca della città, no? Pensavo che non ti mancava nulla. Se non hai tempo per le cose importanti, allora che cosa hai? Se non hai tempo, non hai niente. Tanti messaggi, se non sei padrone del tuo tempo, il tempo è padrone di te, allora non hai niente. Non hai niente. Credi di avere, non hai. Questo concetto ci aiuta, come dicevo prima, ad apprezzare più i momenti e quindi forse anche a capire che il poter avere successo nel tempo dipende anche da potersi concentrare su quello che si sta facendo in un determinato momento, che è una delle nostre grandi sfide oggi in particolare, che siamo sempre, ci arrivano mille messaggi da mille direzioni diverse e questo fa sì che sia molto difficile, se non quasi impossibile, diciamo, ma non è impossibile, ma molto difficile concentrarsi su una determinata questione in maniera, direi, esclusiva. Perché non richiede necessariamente tempo. Vuol dire, questo potrebbe essere un modo per ottimizzare invece il tempo. Perché se io dedicassi 5 minuti a un determinato problema, ma senza avere alcuna altra distrazione, potrei risolverla meglio di magari dedicarvi un'ora a quel problema mentre gestisco anche 30.000 altre cose. Si racconta del Rashban, Rabbi Shlomo Ben Aderet, un grande maestro spagnolo medievale, che scrisse moltissime opere anche di Halakha e di commento sul Talmud, opere profondissime, responsum, uno dopo l'altro, e tra l'altro lavorava anche da medico. Vuol dire un lavoro impegnativo, era il Rav di una comunità e come dicevo prima rispondeva a domande che gli arrivavano da tutto il mondo per iscritto, molto simile. Allora si racconta che lui aveva tempo per fare tutto e anche per ogni giorno fare una passeggiata in giardino. Perché? Perché tempo ottimizzato, la cosa che fai in quel momento la fai totalmente. È difficilissimo, bisogna faticare, bisogna impegnarsi per abituarsi a fare questo. Non è, magari potessi io, cioè sicuramente posso, però dovrei impegnarmi di più. Però se ci pensiamo è l'unico metodo e che veramente dà importanza al tempo. Anche Nachman dice una cosa del genere. Ah sì? Farsi una cosa e ignorare il resto. Rabbi Nachman. È ovvio che diciamo un atteggiamento di questo tipo deriva da un apprezzamento del tempo. dal capire il senso che un Che momento è un perso tesoro è un che. momento perso, un tesoro perso, un indumento dell'anima, eccetera, come dicevamo. E per concludere, dicono i maestri, noi contiamo Israel monim la levana, noi Israel contiamo, gestiamo il nostro tempo in base alla levana, cioè la luna. Così come la luna che va, ai nostri occhi ovviamente, va diminuendosi, poi si rinnova, anche per noi il modo di portare al rinnovo, il rinnovo più importante che aspettiamo è la venuta del Mashiach, è diminuirsi. Che vuol dire diminuirsi? Annullare il proprio Annullare io. se stesso. Cercare di lavorare su di sé per essere meno importante nei propri occhi, meno importante nel senso di arroganza, di Certo. importanza del proprio io, il proprio ego. Questa diminuzione porta un rinnovo, il vero io, il vero. Amen, che sia presto nei nostri giorni. Amen.